È come se noi fossimo sempre in due o in tre. Uno voglia andare al cinema, uno di mangiare una pizza e l'altro di fare l'amore. Tutto nello stesso momento. Scegliere una di queste cose significa rinunciare alle altre. È una legge economica. Devi calcolare sempre quanto vale quello a cui rinunci mentre fai quello che hai scelto. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Si chiamava Lal. Era cingalese. Aveva una moglie e tre figli. Viveva in un appartamento di 50 metri quadri e faceva il portinaio. È stato il mio primo portinaio. Arrivavo da un paese di provincia dove ci sono tutt'al più case mono, al massimo bifamiliari. Quella figura per me era abbastanza sconosciuta. Lo vedevo tutti i giorni sotto la finestra della mia stanza al piano terreno. Era uno stabile quasi signorile, di quelli come a Milano ce ne sono parecchi. Aveva una ventina di appartamenti che appartenevano tutti alla stessa proprietaria, la signora Urani. La signora Urani viveva all'ultimo piano dell'edificio e, non lo so, probabilmente lei pensava che il portinaio del palazzo fosse il suo portinaio privato. Quindi gli chiedeva un sacco di cose, di portare la spesa fino a casa, gli diceva quando e come pulire. Lal era dello Sri Lanka e diceva che quel lavoro gli piaceva. Anche la città, Milano, gli piaceva. Probabilmente si faceva andare bene tutto quello che succedeva e tutto quello che la signora Urani gli chiedeva. Lei non mi stava simpatica. Lui sì. Ecco, Lal è stato il primo custode di palazzo che ho conosciuto. Non sapevo bene come comportarmi di fronte a quel tizio che ogni volta che uscivo e ogni volta che rientravo mi salutava come fosse l'animatore di un villaggio turistico. Mi metteva anche un po' in imbarazzo. Quindi pensavo che se lui era lì e io ci passavo davanti, fosse una cosa carina almeno scambiarci quattro chiacchiere, no? E quindi mi fermavo tutti i giorni e parlavo. Poi io e gli altri ragazzi dell'appartamento in cui vivevo ci diventavamo un po' amici insieme a Lal. Lo invitavamo a cena da noi. Lui diceva che avrebbe fatto altrettanto a casa sua, però la casa era troppo piccola, che erano già in cinque e quindi non ci saremmo proprio entrati. Negli anni noi ci siamo convinti che le persone a vivere in quella casa in realtà fossero molto di più di cinque. Qualche zio, qualche cugino di passaggio, però che lui li nascondesse dietro al suo sorriso scuro. Lal ci aiutò in un paio di traslochi, ci diede informazioni sulla ragazza del terzo piano, quella che piaceva al mio coinquilino. Si fece messaggero di pace in più di un'occasione, quando la signora Urani voleva cacciarci dopo qualche festa un po' molesta protratta sino ore proibitive. E poi, un giorno, la sua famiglia dovette tornare nello Sri Lanka. Lal aveva 50 anni, anche se l'età dei cingalesi è difficile da definire. E dopo essere stato qui 10 anni da solo, era riuscito a tornare insieme ai figli, insieme alla moglie, facendolo venire a Milano. E poi, senza che mai capissi bene il perché, si trovò di nuovo da solo. Una sera lo trovai appoggiato al cofano di un'auto vicino a casa, completamente ubriaco e in lacrime. Mi stupì quell'avvenimento. Per la prima volta mi era sembrato di infrangere il mistero che si nasconde dietro la guardiola dei portinai. Mi sembrò di arrivare più vicino a quella persona che sapeva tutto di noi, ma di cui noi sapevamo molto poco. Quella notte lo portai a casa e lui mi ringraziò tutti i giorni, fino a che non lasciai quella casa. Non seppi mai il motivo di quella disperazione, perché in fondo Lal faceva il portinaio, e dei portinai non si sa mai niente, anche se loro sanno tutto di noi. 800240024 è il numero di telefono, 349-238-6666 è per mandare gli sms. In questi giorni io sto facendo per l'ennesima volta negli ultimi tempi l'ennesimo trasloco. Ne ho fatti diversi negli ultimi anni e questo spero che sia l'ultimo, perlomeno per un po' di tempo. Il primo diaframma che incontri quando entri in un palazzo nuovo, in particolar modo di città, grande o piccola che sia, in paese è un po' diverso, soprattutto se entri in una casa piccola. Se entri in un palazzo però, proprio il primo baluardo è la portineria. Nel mio caso è la portinaia. La portinaia è un po' una figura di frontiera, no? È come una fortezza bastianica piazzata là sopra per vedere chi sta arrivando, cioè come se gli inquilini la mettessero lì davanti per dire tu stai qua, tieni d'occhio e avvisaci se succede qualcosa. La cosa che poi succede in realtà è che alla fine quella figura lì che sta dietro alla guardiola sa tutto di noi, sa tutto della nostra vita, anche sebbene non capiamo il perché, e noi sappiamo pochissimo di lei. Ecco, questa cosa l'ho notata ancora ieri quando per la prima volta ho visto la portinaia del palazzo in cui sto per andare a vivere. Ecco perché oggi vi racconto un pochettino la sua storia, o perlomeno quella che sono riuscito a decifrare dai pochi incontri di questi giorni. E però mi piacerebbe sentire le vostre storie di portinaio. Tutti quanti hanno avuto nella propria vita una portinaia o un portinaio, come Lal nella fattispecie, che è ancora lì, è ancora in corso San Gottardo, in via Tabacchi per esattezza. Se ci passate davanti lo vedete con la sua bella, bella pelle scura e il suo sorriso statuario. Però ci sono diverse storie di portinai che tutti voi avete frequentato o che vi hanno frequentato in un modo o nell'altro. 800 24 00 24, 349 238 6666. Jean Paul per esempio mi scrive sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui. Quando anni fa traslocai da un palazzo con portiere non proprio britannico e non proprio garante della privacy, e mi fa un esempio delle sue frasi: ma chi era quella tua amica che è salita ieri? Oh, vedi, carina, chissà che studiate ve fate al pomeriggio. Insomma, quando traslocò da questo palazzo ad un condominio in cui era stata abolita la portineria, mi sentii come quei tedeschi dell'est arrivati ad Amburgo o a Monaco, che sperimentavano la vita senza gli occhi e le orecchie della Stasi. E poi mi scrive anche: invece, in corso di Porta Romana 51, a Milano, ricordo negli anni 70 un portinaio eroinomane con un gigantesco Doberman che un giorno in cortile a 6 anni mi schienò sbavandomi sul volto impaurito qualche minuto prima che il padrone lo richiamasse. Franco, si chiamava così, fu cacciato perché tagliava le gomme delle auto dei condomini e morì d'overdose. Sembra una storia di quei fumetti noir, quelle storie da romanzo criminale, esatto, poi disegnate da qualche disegnatore strano, però è una bella storia. E poi ancora mi scrivono: Francesco, che è il suo portinaio, lavorava nel palazzo dove ho trascorso la mia infanzia, con il volto solcato da rughe profonde, pelle cotta dal sole, manco fosse un marinaio, e l'odore di cucina che usciva dalla loro portineria era il mio quotidiano bentornato a casa. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, storie di portinai e di portinaie oggi qui a Io Sono Qui. La mia di storia invece inizia così. Tutti noi abbiamo come obiettivo il raggiungimento della felicità. Esistono due principi che portano alla realizzazione di questo obiettivo, e sono il principio di piacere e quello di realtà. Il principio di piacere è teso all'ottenimento della felicità. Nella tensione verso questo obiettivo, però, si scontra inevitabilmente con le regole sociali e le costrizioni morali che caratterizzano la realtà in cui viviamo. Questo ostacolo concreto frustra i nostri desideri. Noi, quindi, per non vedere fallire la nostra speranza di felicità, siamo costretti a scendere a patti con il mondo che ci circonda, aderendo a quello che è definito principio di realtà, che invece cerca la soddisfazione dei desideri in relazione a ciò che offre la realtà, in sintonia con le regole e i comportamenti accettati. In sostanza, il principio di realtà agisce in modo da adattare il soddisfacimento del desiderio alle situazioni che tendono a limitarlo. Quindi noi escogitiamo forme di appagamento diverse, ciascuno di noi preferisce la realtà che immagina in modo da soddisfare i propri desideri, in modo cioè che il principio di realtà che abbiamo stabilito ottenga la felicità che noi desideriamo. Ieri insieme a Natalie ci siamo messi a sistemare i libri, quelli che lei ha portato nella sua nuova casa. C'erano un sacco di scatoloni, di quelli che tutti hanno sollevato e hanno spostato durante un trasloco. Io di recente parecchie volte, direi. Mentre sistemavo quelli che lei ha usato per studiare all'università, me ne è capitato in mano uno di psicologia. Ho dato un occhio all'indice e ho trovato il capitolo dedicato alla felicità. E ho letto questo pezzo, dedicato al principio del piacere e a quello di realtà. Non so quanti esami di psicologia abbia dato Natalie, ma abbiamo iniziato a parlare. E lei mi ha raccontato di come essere felici significhi sempre soddisfare una parte di noi e scontentarne un'altra. Io non capivo bene questo ragionamento, e lei mi ha spiegato che è inevitabile che ci si tenga delle cose per sé, cose che sono piccole, a volte impalpabili, ma che magari sono in contrasto con l'armonia che abbiamo creato con un gruppo di persone, ad esempio, con i genitori, con la persona che amiamo, e quindi ce le teniamo per noi, appunto. Ed è giusto che sia così. Quella parte che rimane sopita però ha bisogno di essere nutrita, ha bisogno di soddisfare il proprio piacere, e quindi alla fine reclama uno spazio tutto per sé. È come se noi fossimo sempre in due, o in tre. E quindi uno voglia andare al cinema, uno di mangiare, uno di far l'amore, e l'altro un'altra cosa, tutto nello stesso momento. Ecco, scegliere una di queste cose significa rinunciare alle altre. È una legge economica. Devi calcolare sempre quanto vale quello che rinunci. Lo devi calcolare mentre fai quello che hai scelto. To keep yourself and yourself, but all mine, nothing. nothing else could have been done. She made her life a life song. She Poi, ieri, sono uscito per andare a fare una corsa. È una cosa che mi aiuta quando ho bisogno di riordinare le idee. Questa cosa del siamo sempre in due o in tre, sinceramente, non l'avevo capita bene. O meglio, l'avevo capita e non mi era piaciuta. Forse perché penso che un po' sia vera e che quindi sia davvero un casino. Quando sono arrivato davanti a casa di Nathalie, mi sono fermato e sono rimasto lì davanti al portone. Lei sta traslocando qui, io ancora non ci abito ufficialmente. Ci dormo praticamente tutte le notti, però, e non ho ancora portato tutta la mia roba. È un edificio d'inizio secolo. È un palazzo di ringhiera, di quelle che gli agenti immobiliari chiamano tipico edificio stile vecchia Milano. Erano case la cui porta d'ingresso si trovava su un ballatoio che corre lungo tutta la facciata del palazzo. Quella interna, ovviamente, quella che dà sul cortile. Ecco, improvvisamente mi sono messo a pensare a tutte le persone che popolano questi appartamenti. A quanti sono loro e quanti di loro sono quelli che abitano dentro di loro. Dunque, in questo edificio ci sono circa 40 appartamenti. Se facciamo una media di 3 abitanti per appartamento, qui ci vivono 210 persone. Se ogni persona ha in sé almeno 3 diverse identità, qui dentro ci sono qualcosa come 630 persone. Senza contare quelli che hanno vere e proprie doppie vite, quindi fanno decollare la cifra. Ero sudato, facevo un gran freddo, però non riuscivo a smettere di pensare a tutte le persone con tutti i loro io che vivevano lì dentro. E mentre fissavo il portone, sono entrati una donna con un bambino, poi un tizio con una valigetta e alla fine una ragazza con un cane. Per un attimo mi sono domandato se la conta dell'identità valesse anche per gli animali, poi però ho rifuggito questo pensiero. Tutti però, entrando nel portone, guardavano verso destra e facevano un saluto. Ho capito che c'era qualcuno che quelle persone le conosceva tutte. Conosceva loro e probabilmente conosceva anche le loro identità multiple. Era la persona che se le vedeva passare davanti tutti i giorni. È quella che prende in consegna e distribuisce la posta, quella che fa le pulizie, quella che riceve le persone che entrano nel portone, quella che rimane tutto il giorno chiusa in uno sgabbiotto con una vetrina e guarda verso l'ingresso, come una sentinella che dà sicurezza e incute timore. È la persona che tutti conoscono e tutti temono, proprio per quel motivo lì, perché lei sa tutto di tutti. È la portinaia. Io non ho mai avuto uno splendido rapporto con le portinaie. Per un certo periodo della mia vita ho avuto una portinaia che quando mi incontrava piangeva. Lei era una tipa molto religiosa e si era messa in testa che il suo obiettivo doveva essere convertirmi. La portinaia dello stabile di Nathalie però è diversa. Innanzitutto lei non sta in portineria solo durante gli orari di lavoro. Lei lì ci vive proprio. Praticamente dietro al vetro c'è un locale che ha la portineria vera e propria, ma dietro a quella c'è la casa in cui lei vive con il marito e con il figlio. Ha un'età indefinibile, tra i 50 e i 60 anni. Il marito è piccolo e magrissimo, il figlio invece sembra un lottatore di sumo. Lei ha l'aria un po' cattiva. Quando entri ti scruta come un piantone in caserma. E legge sempre giornali pieni di foto con donne nude. Ma non sono giornali pornografici, è roba tipo chi visto, chi l'ha visto. Un giorno sono passato mentre guardava molto concentrata alla televisione un monologo di Alfonso Signorini. Insomma, ieri sera, quando ormai il sudore mi si era asciugato addosso, sono entrato nel portone e mi sono fermato davanti alla guardiola. Ho guardato dentro, ci ho un po' sbirciato a dire la verità, ma non c'era nessuno. C'era solo la TV accesa e proiettava una luce giallastra un po' su tutto. Ho pensato a qualcosa da dire per chiamarla, ma non mi è venuto in mente niente. Quindi ho lasciato stare e sono andato verso le scale. Ho chiamato l'ascensore. Mentre aspettavo, mi sono sentito chiamare. Dalla finestra la portinaia ha messo fuori la testa e ha allungato un braccio, stringendo delle buste in una mano. Io sono tornato indietro, ho preso le lettere e lei mi ha detto Queste sono per la signorina Nathalie. Non mi aveva mai rivolto la parola prima. Io l'ho ringraziata e poi ho allungato la mano per presentarmi con il mio nome. Lei mi ha guardato e mi ha detto: lo so, sono la portinaia, è mio dovere sapere chi abita nel mio palazzo. Ho appena fatto la conoscenza della nostra portiera. Anche lei pensa che non è quello che crediamo? 800240024 349-238-6666. Il pezzo che avete sentito è un minuscolo pezzo preso da un film che si chiama L'eleganza del riccio, che è un film preso da un libro che si chiama L'eleganza del riccio. In realtà credo che il film non si chiami L'eleganza del riccio, credo si chiami solo Il riccio, giusto? Ok, grazie a Viola che mi ha reso edotto del fatto che si chiama solo Il riccio e non L'eleganza del riccio, visto che molti me l'avete scritto: hai appena letto L'eleganza del riccio? Hai appena visto Il riccio? No, non ho fatto né l'uno né l'altro, però insomma era abbastanza famoso per sapere che parlava di una portinaia. Prima però di leggere qualche messaggio che è arrivato riguardo alle portinaie, c'è un messaggio di Gianluca che vorrei leggere, perché tempo fa avevo parlato di volare, avevo parlato dell'aereo e di quanto mi facesse paura volare in alcune situazioni, non sempre. E Gianluca, che ha oltre 30 anni, mi aveva scritto che mi ringraziava perché l'aveva terrorizzato con quella puntata. Invece mi scrive: ciao Matteo, sono quello che ti disse che l'avevi terrorizzato perché il 31 avrebbe preso per la prima volta l'aereo. Io sono qui e volare è stupendo. Gianluca 72. Questo vuol dire che ha 38, 39. Quest'anno sono 39, Gianluca, quindi direi che era anche il caso di fare il primo volo. 349-238-6666. Non avevo un portinaio, ma l'uomo delle pulizie era diventato un mio grande amico. Grande Francesco, grande Francesco è l'uomo delle pulizie che lui saluta. Grande Francesco. La mia portinaia di Sestriere ha la bella abitudine di lavare le scale dell'entrata la mattina con 5 gradi sotto zero. Ovviamente una lastra di ghiaccio. In tutte le case dove ho abitato non c'è mai stato il portiere. È roba da ricchi. Meglio per te. Boh, non credo sia roba da ricca. A Milano, diciamo, è abbastanza comune avere il portiere almeno la mattina, insomma, qualche ora durante il giorno. Non potete non passare la gag della portinaia di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ce l'ho presente, non ce l'ha neanche Tiziano Boni, Paolino neanche, Viola. Oh, uno in redazione che ci avesse presente la gag della portinaia, chiunque se la ricordi, anzi se uno se la ricorda e la vuole ricordare, 80024 0024 a viva voce, o altrimenti andate sul profilo Facebook che è sempre quello, che è quello nuovo, che è Matteo Caccia, io sono qui, è una fanpage, credo che dobbiate cliccare su mi piace per poter caricare qualsiasi roba, vabbè, lo fate e diviene tutto più semplice. Poi invece vorrei, a proposito di Facebook e di persone che caricano delle cose utili, vorrei ringraziare Francesco Spinelli, perché mi ha scritto: a proposito di portinaia, c'è un articolo interessante che era stato pubblicato su Tutto Libri della Stampa anni fa, a firma di Gianfranco Morrone, ed è un articolo che parla del pettegolezzo, che va in profondità riguardo al pettegolezzo, di come viene usato al giorno d'oggi, e quindi parla anche un po' di portinaia. Dice così: strano destino quello del pettegolezzo, passa di bocca in bocca con malsicura fermezza, nessuno se ne fa carico, ma tutti contribuiscono a farlo circolare, ben pochi sono disposti a credervi, sebbene molti si divertano ad ascoltarlo e prontamente ripeterlo. E poi, mica si tratta sempre di comari o di portinaie. Gran parte degli universi della finanza e della politica, per citare solo due esempi, si fondano sul sentito dire, sulle voci e sui rumori che si propagano senza responsabilità e senza remore, influenzando i comportamenti più che concreti della borsa o del Parlamento. E poi conclude dicendo: più che chiedersi di che cosa parla il pettegolezzo, è bene andare a guardare tra chi circola, che genere di persone, grazie a esso, entrano in un qualche contatto tra di loro. Da qui un cauto elogio della portinaia. Dal suo gabbiotto, essa media tra l'interno del palazzo e il mondo di fuori, ma soprattutto permette ai condomini di conoscersi senza frequentarsi, favorendo contatti umani già caricati di senso. Senza i portinai, il mondo sarebbe certamente più triste. Grazie ancora Francesco Spinelli. Una cosa quindi che vi chiedo di fare: se avete cose da consigliarmi che riguardano quello di cui parlo, andate su Facebook e caricateci quello che si vuole. Matteo Caccia, io sono qui. C'è un messaggio di Elisabetta, sempre su Facebook, che parla di portinai, perché c'è qualcuno a cui è capitato essere particolarmente in contatto con un portinaio, perché era magari un parente. È il caso di Elisabetta, dice: i miei suoceri lavorarono per un periodo nella portineria di uno stabile di uffici. Mia suocera era una mamma di scorta per le impiegate, a cui non negava una tazza di tè o un aiuto in caso di necessità. Ancora oggi, dopo 20 anni, qualcuno la chiama ancora per gli auguri di Natale o per un saluto. Storie di portinai e di portinaie. Oggi io sono qui, 800240024 349-238-6666. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in una cartolina più che una fotografia. È un paesaggio collinare che è... Ma mi sbaglierò, però probabilmente sarà la Toscana o l'Umbria, siamo sempre lì, o le Marche magari, potrebbe essere. C'è praticamente un velo di foschia e di nebbiolina da cui spunta questa sorta di isola che è un villaggio in cima a una collina. La luce è proprio blu, è azzurrata, è la luce di un'alba, immagino, più che di un tramonto, altrimenti sarebbe rossa. Ci sono lucine sparse dappertutto, sembra la cosa più banale e semplice, che sembra un presepe. E in cima a questa collinetta c'è un... non si vede bene, potrebbe essere una chiesa, ma forse no, è un palazzo signorile. Secondo me siamo in Toscana. Geri Virgadamo, 25 anni. Il paese che galleggia sul Nuvole è Poppi, in provincia di Arezzo. È il 31 dicembre e sono le 6:30 del mattino. Mi sono alzato prima dell'alba solo per vedere questo spettacolo. Io sono qui. Grazie Geri, andate a vedere questa fotografia perché sembra veramente una cartolina e andate a vederlo sul sito che è radio24.it, la pagina Io sono qui. Oggi vedevo anche che qualcuno si lamentava perché non si trovavano le playlist, cioè i brani che mandiamo e che Tiziano Bonini sceglie tutti i giorni, e si trovano anche quelli sulla pagina del sito di Radio 24, radio24.it, la pagina Io sono qui. Ci sono le foto e ci sono le canzoni. Oggi però si parla delle storie di portinai o di portinaie che in qualche modo hanno attraversato la nostra vita. E c'è un SMS che, non lo so, forse è una citazione. Non si sa perché avevano tolto il portinaio dal suo monolocale attaccato alle scale e al suo posto abitava una vecchietta di 80 anni, simpatica, piccola ma con un cuore grande. Dopo 6 mesi ero diventato il suo nipote adottivo. Se mancava il latte andavamo noi a comprarlo e prima di tornare dalla famiglia per le vacanze di Natale la salutavo fino a quando morì il giorno di Natale. Forse allora non è una citazione, forse è semplicemente un SMS. Ciao Matteo, mi hai fatto ricordare la Bruna, portinaia che scoperta ad Oregliare finse disinvolta di sradicare un oleandro ventennale. Steo di Biella. 800240024 349-238-6666. Daniele intanto mi scrive: a me sfugge come il mio portinaio, dopo aver svolto le sue mansioni di pulizia nella mattina, riesca a trascorrere l'intero pomeriggio, quindi dalle 3 alle 7, appoggiato alla macchina a parlare con chiunque esca entri al palazzo. Caro Daniele, io credo che quello faccia parte del suo lavoro. Andiamo però ad Ancona, perché Marco ha scoperto una cosa particolare della sua portinaia. Pronto Marco? Sì, pronto. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Io bene, bene, grazie. Dove sei? In macchina, al lavoro? Sì, mi sono fermato, sono in viaggio per lavoro. Che lavoro fai? Guarda, mi occupo di attrezzature per allevamenti, diciamo, mangimi e quant'altro. Cibo per allevamenti, quindi? Sì, cibo e attrezzature. Generiche. Attrezzature particolari, lampade riscaldanti, gabbie, trasportini. Ma per che cosa? Per gli animali comunque? Per animali, sì. Ma tu hai fatto agraria o roba del genere o hai studiato economia? No, è un agente di commercio. Ah, ok. Però il settore è questo. Perfetto, perfetto. Senti Marco, invece andiamo alla tua portinaia. Che cosa fai? Come l'hai scoperto? Ma l'ho scoperto perché... tutta la mia corrispondenza era... è presente la carta quando viene bagnata, che diventa ondulata quando certo, si asciuga, certo, no? Ecco. Sì. E questo spiega perché la mia portinaia ha sempre nel tavolo uno di quegli apparecchi per la sauna facciale, che praticamente altro non è che un evaporatore, uh-huh. E fiumi di colla stick. Scusami, ma lo strumento per la sauna facciale è una roba che serve tipo per aprire i pori, una roba da donna? Esattamente, sì, e genera vapore in realtà. Chiaro, quindi chiaro. Quindi con chiaro. Questo vapore scioglie apre la colla della chiusura della busta, controlla il contenuto, generalmente predilige gli estratti conto bancari. Cioè tu hai trovato, li hai trovati tutti aperti? Cioè aperti, no, chiusi, ma... Okay. Mi è venuto il dubbio, però dubito che una banca possa avere un addetto come Fantozzi che chiuda le buste con la colla. Ecco. Senti, e gliene hai parlato, Marco? No, me ne sono ben guardato perché non vorrei che di subire qualche ritorsione, insomma, quindi alla fine... È un atteggiamento mafioso proprio, cioè sì, alla, contro la portinaia non si va. No, assolutamente, perché poi magari capita che si ha bisogno di una cortesia e se questo è il prezzo da pagare, insomma, alla fine. Cioè, quindi tu rinunci a un tocchettino della tua privacy pur di avere la portinaia dalla tua. Vivere, sì, che tipo è la tua portinaia? Quanti anni ha? Ma è una donna molto energica, sopra i 70 anni, però ecco... è molto, diciamo, molto energica come persona, molto cioè, hai paura di prenderle, mi pare di capire, Marco, proprio. Prenderle no, però potrebbe andar peggio, perché so che si prende delle libertà con altri inquilini che io preferisco di no. Tipo, scusa, fammi un esempio, Marco. Faccio un esempio: quando sta per piovere, a quelli del piano terra, lei toglie la biancheria dagli stendini, la piega e la tiene lei. Può far comodo, ma a me l'idea spaventa un po'. Certo, è un po' la mia biancheria. È bello, immagino, è un po' come quando la mamma ti dice: guarda, ma non ti preoccupare, lasciami le chiavi di casa, magari vengo a fare le pulizie. Esatto, esattamente, sì, esatto, la stessa situazione. Quindi a me poteva andare peggio, tutto sommato accetto. Quindi diciamo, lei sa quanto ha in banca e a te non dà fastidio. No, non dà fastidio. Va bene, mance alle portinaie se ne danno? Sotto le festività sì, questo è un dato dolente, perché magari uno non ha il pure il pizzo si paga, no? Alla portinaia. Quanto le dai alla portinaia? Ma generalmente 50. 100 euro, sì, a seconda. Se magari ha fatto qualche servizio, io mi assento per parecchio e magari mi dà una mano in qualche modo, mi avvisa per qualcosa. Ti controlla se gli estratto conti sono tutto a posto, ad esempio. Esatto, ecco, magari mi fa da consulente finanziario, mi dice attento alle spese, io magari raccolgo il consiglio. Marco, grazie. Come si chiama la portinaia, così la salutiamo? Allora, il nome di battesimo non ci crederai, ma non lo so, perché io la chiamo per cognome. Signora, il cognome eviterei di dirlo, perché non ascolta questa radio, ma non vorrei mettere la pulce in orecchio, certo, ad altri. È ufficiale che hai proprio paura, Marco, direi, di questa portinaia. Sì, ma sì, mi piace questo atteggiamento reverenziale. Buona giornata, Marco, grazie. Anche a te. Ciao, ciao. Alice mi scrive: basta fermarsi almeno 2 minuti al giorno a parlare con la portinaia e la tua vita cambierà. Io ora so tutto di tutti, ecco perché cambierà, perché sai tutto di tutti, e so tutto di lei, e soprattutto ora vengo trattata come una regina per tutto quello che riguarda il condominio. Nella classifica di gradimento ho superato il notaio del quarto piano. Ehi, accidenti, andiamo da Francesca Carla, da sì, Monza, sì. Pronto? Buonasera. Buonasera, Francesca Carla è un nome unico? È un nome, ma hanno battezzato con due nomi. Ma quindi, scusami, Francesca Carla, tu cosa dici? Come ti presenti? Come Francesca Carla? Francesca Carla, perché per firmare devo firmare Francesca, no? Perché se no non è valida la mia firma, però mi ha sempre chiamato Carla. Ma Carla, dimmi come chiamarti, perdonami. Chiamami Carla. Carla, com'è che sei di Monza, ma hai questo accento che è chiaramente del Piemonte? Ma io sono piemontese. Okay. Io sono della Val Susa, di un piccolo paesino della Valle di Susa. Ok, va bene. Raccontami, come si chiama il paesino? È Valles. Una volta era Valles, poi l'hanno italianizzato in Valle, adesso cercano di nuovo di mettere il nome di prima, Valles. Quanti anni hai, Carla? Io ne ho 69, quasi 70, il 15 febbraio sono 70. Bene, allora ti faccio già gli auguri. Raccontami invece del tuo portiere o portinaio. Portinaio, allora, nel 68 io e mio marito, giovanissimi eravamo con un bambino piccolo, ci siamo trasferiti nel Napoletano. Sì. Avevamo una casa, un alloggio, no? in un condominio, certo. Molto bello. Siamo partiti lontano dal 68, ma arriviamo in fretta al 2011, sì, vero Carlo? In fretta, non faccio in fretta, non racconto tutta la grande, storia. Allora, brava. Lì avevamo una casa proprio sul mare, certo. No? Si vedeva, che meraviglia. Che bello, che bello. E c'era il portinaio, no? C'era un ingresso grandissimo e lui aveva una cosa lì tutta vetri, lì. Una portineria. La portineria, certo. E niente, passavamo di lì, buongiorno, buonasera, poi magari si facevano due chiacchiere. Cordialità. Natale, Pasqua, sempre la magia. Ma mio sempre figlio, sì? A mio figlio di 4 anni, era un po' vivace, no? Sì. E lui a volte scendeva giù, no? Faceva una corsa, andava giù in portineria, magari faceva una corsa e poi tornava su. E il portinaio a volte diceva: no, non si può, e diceva: no, non scendere più, non scende. Un giorno è venuto su il portinaio, tutto arrabbiato, rosso in faccia, e mi fa: deve insegnare educazione al suo bambino. E perché, cosa ha fatto? Mi ha chiamato, mi ha detto: tu sei il capo dei peperoni arrostiti. E io ho detto: ma non è possibile, ma io ho mai sentito una cosa del genere, e quasi mi scappava da ridere, però cercavo di dire: ma scusami, guardi che è un bambino. Carla, quanti anni aveva? Esatto. Quanti anni aveva tuo figlio? 4 anni. 4 anni già leggeva Topolino. Bravissimo. Come sono chiusi i rapporti con il portinaio? Si sono raffreddati da quella volta lì. Si sono raffreddati, io mi sono scusato, detto, non Carla, so, magari ma guardando è vera, Carla, i mi assicurate che sia vera. Si sono raffreddati. Passavamo davanti. Buongiorno, buonasera. Va bene. Carla, ti ringrazio, starei veramente tutto il giorno a sentirti, però ho altre telefonate in attesa e ti faccio un altro augurio per il tuo compleanno. Sì, grazie. grazie mille, ciao Matteo. Grazie, ciao Carla, ciao, ciao Francesca o che tu sia. Sono io un portinaio, sono il portinaio di notte, no, attenzione, il portiere è un'altra cosa, sono il portiere di notte di un albergo di coppiette, come hai detto, non sanno nulla di me, ma io so tutto di loro, però il portiere è un'altra roba ancora in cui si potrebbe probabilmente fare un intero programma e non solo una puntata. Oggi mi è arrivato un messaggio però, sempre su Facebook, che diceva: io ho vissuto 11 anni in un palazzo di ricchi dove mio padre era il portinaio. Lui vive in Brasile, però noi l'abbiamo contattato là. Pronto, Diego? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Senti, che ore sono in Brasile adesso? Qui sono le 12:30, una meno, sono 4 ore in meno. E che ci fai tu in Brasile, Diego? Ero stanco dell'Italia, sono venuto qua. Ah, ok, no, quindi... a parte non avevo tante possibilità, diciamo, lavorative in Italia. E sei venuto a vivere lì? Sì, sono qui per aprire una pizzeria, una rosticceria, qualcosa. Senti, insomma. Diego, c'ho un 30 secondi, raccontami la tua vista da dentro, com'è essere un portinaio, il figlio di un portinaio nel tuo caso? Di un portinaio. Mio padre è un portinaio atipico, diciamo, perché non prendeva tante mance. Eh? Perché non apriva la posta? Eh? Non apriva la posta degli altri? No, vabbè, non si faceva fatti suoi, non era, diciamo, un portinaio non invadente, ma... insomma, non gli piaceva sapere i fatti della gente, diciamo. Sì. Quindi faceva il suo, faceva le sue ore, scioperava quando c'era da scioperare. Ah, scioperava? Sì, c'è anche la categoria per sindacalizzare e tutto. Senti, tu non hai mai pensato di fare il suo mestiere? No. Me l'hanno più o meno anche proposto, ma ho rifiutato. Cosa fai quindi adesso in Brasile ufficialmente? Hai una pizzeria? No, ancora no. Sto per aprire la pizzeria. Senti, ce l'hai invece un bel ricordo di quando eri piccino e tuo babbo faceva il portinaio, le persone che c'erano nell'edificio? Sì, c'era una signora, si chiamava Papili, tutti i giorni scendevo col caffè questa signora, raccontava sempre le solite cose, ma... insomma, ricordi della guerra, di suo marito. Senti, Diego, tu adesso hai una famiglia in Brasile oppure... Sì, c'ho una famiglia, c'ho un figlio piccolino. Senti, quando apre la pizzeria fammelo sapere tramite Facebook, ok? Diego, ciao, grazie mille, buona giornata, ciao, ciao alla prossima. Grazie a lui, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Tutto quello che se racconto qui lo trovate sul profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?